5, 4, 3, 2, 1. Conto alla rovescia. L'Italia nello spazio. 3, 2, 1. We have ignition and liftoff of a Delta II rocket and WISE. Searching for stars and galaxies never seen before. Lancio notturno per il Wide Field Infrared Survey Explorer. L'acronimo è WISE, il saggio, una sonda osservatorio che dovrà esplorare, mappare la volta celeste con una capacità di visione e di penetrazione superiore a tutti i sistemi precedenti. Lavora nel campo dell'infrarosso, all'interno di una capsula criogenica. I suoi sistemi saranno dunque in grado di rilevare oggetti straordinariamente lontani, ma anche quelli che si avvicinano, come gli asteroidi, freddi e dunque sfuggenti. Bentornati all'appuntamento con Conto alla rovescia da Gigi Donelli. Andiamo subito su Marte, da dove arrivano segnali per il rover Spirit. Il robot esploratore, insabbiato sul suolo marziano, ha mosso la ruota che era bloccata dal 13 marzo 2006. Un movimento quasi impercettibile, ma che alimenta le speranze della NASA, che da mesi stanno cercando di portare a termine un'operazione di salvataggio. Il nostro viaggio nello spazio Made in Italy fa oggi tappa Milano, alla Carlo Gavazzi Space, una protagonista sul fronte dell'innovazione tecnologica. Ne abbiamo parlato con l'amministratore delegato Lanfranco Zucconi. La Carlo Gavazzi Space è il secondo sistemista spaziale italiano, è sul mercato da più di 20 anni, sviluppa e produce satelliti e sistemi spaziali nei vari settori, dalla scienza alle applicazioni, e inoltre sviluppa le tecnologie che poi trovano applicazione oltre che nei sistemi spaziali anche nelle applicazioni terrestri, quindi nella medicina, nella micromeccanica, nella chimica, eccetera. Per quanto riguarda i satelliti e i sistemi spaziali, bisogna ricordare la missione scientifica Agile in orbita da quasi 3 anni, che ha fornito agli astrofisici, alla comunità scientifica internazionale, risultati rilevanti nella rilevazione di sorgenti X e gamma mai rilevati prima, poi la costruzione nella base di lancio di Kourou in Guyana francese della rampa di lancio per il lanciatore europeo Vega, un progetto con una partecipazione italiana di oltre il 65%, inoltre Vega lancerà in orbita con il primo lancio previsto per fine 2010 il satellite scientifico Lares dell'Agenzia Spaziale Italiana, costruito dalla Carlo Gavazzi Space con il coinvolgimento di un numero significativo di piccole e medie imprese italiane che svolgono un ruolo molto importante a fianco della Carlo Gavazzi. Ed infine il satellite di osservazione della Terra Prisma, che prevede il lancio nel 2013, una missione, diciamo una primizia a livello internazionale, visto che ha un grande valore strategico. In un mercato dominato dai colossi, dalle grandi aziende ex di Stato, c'è spazio per la piccola e media impresa nel settore aerospaziale? Assolutamente sì, la prova ne è la Carlo Gavazzi Space, è un'azienda che di poco più di 200 ingegneri che è riuscita negli anni ad assumere un ruolo di primo piano, non solo in Italia ma in Europa, e sta lavorando anche per il mercato internazionale. L'ultima sulla Luna arriva dall'India. Sembrerebbe che la sonda Chandrayaan 1, in orbita intorno al nostro satellite, abbia rilevato sulla superficie lunare dei composti organici, cioè di carbonio, il mattone fondamentale della vita sul nostro pianeta. Potrebbero essere anche frutto dell'impatto di comete o di meteoriti che potrebbero avere depositato questi composti. Dall'Agenzia Spaziale Italiana arriva il via libera per il primo bando da 5 milioni di euro riservato alle piccole e medie imprese italiane impegnate appunto nell'alta tecnologia. Il testo e le istruzioni del bando sono scaricabili su asi.it. Riportato a terra da Atlantis, l'esperimento biomedico italiano da 3 mesi sulla SSI è la prima volta che uno stabulario, cioè un'attrezzatura per ospitare modelli animali, in questo caso sono dei topi, viene portata sulla stazione spaziale e per un periodo così lungo. I risultati preliminari di questo esperimento sono attesi tra circa 6 mesi. siamo in conclusione. Vi ricordo solamente che domani dal cosmodromo di Baikonur è previsto il lancio di una Soyuz TM. Tre astronauti a bordo completeranno Expedition 22, destinazione quindi la Stazione Spaziale Internazionale. Mi resta solo da ricordarvi radio24.it per tutto l'archivio di Conto alla Rovescia, di ringraziare Peter Bescapè in regia e di augurarvi un ottimo fine settimana. 3, 2, 1. We have ignition.